Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, è passato un minuto dopo le ore 21. Buona serata a tutti, benvenuti in questo martedì 26 luglio del 2011. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara, seduto dall'altra parte del vetro con i nostri ospiti, come di consueto. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, in questa serata rigorosamente live, come abbiamo già sperimentato in altri martedì, ma non solo di martedì, in altri mercoledì, ma non solo, anche giovedì e venerdì sono stati toccati più volte, ormai diciamo serate live da ogni parte. In questa serata abbiamo un gruppo davvero particolare, un gruppo che viene a trovarci da molto lontano rispetto a dove è ubicata la nostra redazione, quindi diamo il benvenuto ai The Sickle, che arrivano direttamente da Padova. Buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Buonasera. Quindi salutiamo Dave, salutiamo Pupilla e salutiamo Domingo Cabron. Ecco qua, eccolo quindi qui. Dave, che è basso e voce della formazione, poi ancora il Pupilla, che è chitarra, e Domingo Cabron, che ha la batteria. Se volete vedere queste tre simpatiche faccine, potete aspetta che dico l'indirizzo prima. Altrimenti sì, magari qualcuno ti può vedere, ma ancora sono in pochi. Ampliamo la platea dicendo: collegatevi al nostro sito internet www.bluradioveneto.it, cliccate nella parte informativa dedicata ai The Sickle, dove c'è scritto guardate il video, ecco, cliccate lì, giusto, e adesso potete salutare. Eccoci qua. Bene. Allora, The Sickle, direttamente da Padova, con un nome di una band che diciamo mette un po' di paura. Vero. Purtroppo è il misunderstanding che rischia di esserci ogni volta. In realtà non c'è nulla di non c'è nulla politico, che ha a che fare non con... c'è nulla. No. Non sempre la falce si abbina al martello, va bene anche da solo. No, in realtà dopo aver deciso il nome della band, ho scoperto su Wikipedia, su internet, eccetera, googlando, come si suol dire adesso, tra i bimbi. Che in realtà il termine The Sickle è associato spesso in inglese a The Sickle and the Hammer, quindi la falce del martello. No, non c'entra niente. Non c'entra assolutamente nulla. No. Anzi, se vi trovate con un altro gruppo che porta il nome del martello in inglese, vi rifiutate di suonare. No, sarebbe una serata una bomba a quel punto, perché sarebbe The Sickle and the Hammer, quindi sarebbe perfetto. Vabbè. No, è una stupidaggine, in realtà, deriva dal passato, da quando ero piccolino. Mi chiamo Falciglia di cognome, mi chiamavano Falcetto, quindi la piccola falce. Quindi falce, perché non prendere questo per farne un contorno bello per presentare una band che fa del rock abbastanza, diciamo, concreto, per non dire duro, perché se non sbaglio c'è un qualcosa che arriva direttamente dal punk. Sì, diciamo che la matrice è fondamentalmente punk, ma il nostro caro Pupilla ci sa dire meglio come funzionano le cose. Ecco, a te Pupilla. Vai Pupilla. Sì, beh, essenzialmente sì, la matrice è punk rock. La matrice. La lavatrice qua, giuro. La lavatrice è punk rock. Poi, quando centrifuga. Sì. Quando centrifuga. Esatto, mescolando tutto con un frigorifero melodico, viene fuori appunto la nostra miscela di umorismo e ilarità. Avete capito perché l'ho scelto in band? Manca solo lavastoviglie che faccia un po' di jazz e poi siamo a posto. Effettivamente sì, le intenzioni del progetto sono partite su un rock abbastanza pestatiello, ecco. In fase di produzione ci siamo accorti poi magari di essere più pop di quello che pensavamo. Non è che avete tirato il freno, musicalmente è uscito un disco meno duro del previsto, secondo me, con molti addentellati, molti a stelle e strisce, indubbiamente. Molti hanno scritto così e penso io sono d'accordo con chi ha scritto le recensioni, tutte positive, tra l'altro, assolutamente tutte positive. Bisogna ringraziare tutti i soldi che abbiamo speso per le marchette. Oppure o ci scrivete del bene o passiamo di là per caso, no? Noi si è rimasti molto soddisfatti del recensioni o comunque dell'impatto che ha avuto il disco. Logicamente, certo, per quello che è l'aspetto live, quello che possono essere i suoni, gli arrangiamenti e l'intenzione è certamente più dura. Certo, ma qua siete unplugged, però bisogna dire questo. Ma unplugged, a noi piace molto suonare in unplugged, con CH, okay. Diciamo senza spine. Che meglio, sì. Suoniamo spesso così con le chitarre acustiche, no, non è assolutamente un problema, anzi magari l'aspetto più pop è forse dovuto ai messaggi e comunque all'attitudine che mettiamo noi, certo, in quello che facciamo, quindi non vogliamo risultare assolutamente degli spacconi o dei pieni di muscoli. Anche se tu ce li hai, però peli pochi ma muscoli tanti. Però tu svisi frequentemente nel disco, qua chiaramente no, che sei con la chitarra acustica, però svisi abbastanza velocemente e abbastanza frequentemente. No, ma proprio nella vita. Svisa nella vita. È proprio così. Quando vai in giro è. Allora, io direi di addentrarci già nei meandri della vostra musica, The Sequel, presentando già ai nostri ascoltatori quello che è il primo pezzo tratto dal vostro album, non l'abbiamo detto sinora, si intitola Hang Up to Dry, quindi appendilo per asciugarlo. Appeso ad asciugare. Se vuoi appenderlo, comunque si fa solo che piacere. Va bene, hanno portato anche il giusto filo, un po' di mollette per farci, certo, ascoltare la loro musica. Sono 12 brani interi che ascolteremo di fila. Speriamo riuscire ad ascoltarli tutti, altrimenti qualcuno si andrà anche a prendere il disco. Ma ce l'auguriamo vivamente. Assolutamente, siamo qui anche per questo. Allora iniziamo proprio con quella che è la title track, che si intitola Hang Up to Dry. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Just be straightforward despite the consequences that it might incite. Up to do what is right from wrong. When your eyes way before mine, and maybe this won't be a worse one song. There's death in the goodbye. Come make me laugh. Something that's worth a while. But we're too thinking it ain't too late. There's still time to set things straight. This wouldn't be the worst I've felt to date. There's death in the goodbye. Come make me laugh. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E così abbiamo sentito anche la freschezza proposta da questo pezzo, così all'apparenza duro, però poi è stato un po', come dire, addolcito, si può dire così, o perlomeno vorrei vederlo così. Hung Up to Dry, questo è il titolo dell'intero lavoro e anche il titolo della prima traccia che ci siamo ascoltati in versione da disco. La title track, una volta si diceva, si dice ancora, si mi dice pare. Tuttora, sì. Mi dicevi a microfono spento che c'è stato non un cambiamento, però l'impostazione era un po' diversa come missaggio, mi dicevi. Sì, no, sostanzialmente è stato fatto un mixaggio che puntava un po' ad avvicinarsi ad un lavoro a stelle strisce, e devo dire che tutto sommato dai pareri che abbiamo sentito sembrerebbe che insomma il risultato si sia avvicinato, sì, abbastanza. Ma un avvicinamento godibile, assolutamente godibile. Esattamente, e sì, è stato un lavoro appunto impostato su base americana e il mastering è stato tenuto leggermente più basso. Non è assolutamente un problema, basta alzare il volume dello stereo e perfetto, il disco suona bene lo stesso. Sì, sì. Il disco a un certo punto esplode anche, si può dire, perché ha sempre musica molto molto energica all'interno, quindi sono 12 tracce, giustamente come dice Maurizio, godibilissime, ma anche bisogna essere preparati per il momento, oserei dire. Sì, sì, diciamo che noi usiamo chiamarlo e considerarlo più un greatest hits, nel senso che anticipiamo una piccola tematica, forse era la prossima domanda di Maurizio a microfoni spenti di prima, e veniamo da precedenti esperienze, veniamo da lavori diversi. Il discorso che facevo Pupilla riguardo alla durezza e all'impostazione che diamo all'inizio del lavoro, è stata data all'inizio di questo lavoro, è fondamentalmente basata sul mood che riusciamo a dare in questo momento noi tre. In realtà i lavori precedenti sono stati caratterizzati da un mood diverso, in cui la vena compositiva, la vena creativa era prevalentemente data dal sottoscritto e dal batterista. Adesso facciamo un discorso, allora prima parliamo con te il batterista, poi parliamo con Pupilla. I lavori precedenti, tu facevi parte di un gruppo assieme al batterista, vero? Sì, i Pink Lizard. Esattamente, che quindi è un gruppo di Padova. Delle lucertole rosa, a quanto pare. Sì. Musicalmente che genere faceva i Pink Lizard? Io sono arrivato nel periodo finale. Lui ha visto nascere, crescere e anche morire il progetto. E all'inizio sono partiti con il classico, ci eravamo incanalati in quel ritorno di glam anni 80 che c'era stato agli inizi del 2000. Sì. E quindi eravamo partiti con quello, sull'onda poi dei Darkness che certo erano usciti a livello mondiale, quindi avevano dato un po' il via libera, la spinta, esattamente, a tutte queste cose. E da lì abbiamo appunto, quindi la matrice era abbastanza glam, sì, soprattutto dal punto di vista di abbigliamento più che dal genere, quindi vero e proprio un certo modo di presentarsi, esattamente, insomma. Quindi un po' la cotonatura, i colori sgargianti, quel tipo di look là. E poi il genere era comunque abbastanza duro, c'erano, sì, chitarre un po' più dure, batterie un po' più pesanti. E nell'ultimo periodo della band, soprattutto quando poi è entrato Davide, eravamo passati un po' più, ma per un'evoluzione molto naturale all'interno della band, a un pop punk più vicino comunque a questo, quello che è il De Sicolo adesso. Esatto, ho capito. Mentre Pupilla, da dove proveniva Pupilla? Io ho avuto una prima esperienza con una band, sempre un trio punk rock, anche lì era una situazione più energica certamente, benché sia comunque riuscito a mantenere il mio suono nel corso degli anni. Poi appunto ho avuto un'esperienza di un paio d'anni con i Porno Pilots, che se non mi sbaglio sono stati anche sono venuti qua sì, qualche esatto, anno fa, sì, e sono andato a sostituire il cantante nel frattempo mentre lavoravamo con i Porno, appunto mi hanno fatto questa proposta loro, e una proposta indecente, sì, no, una cosa di cui gli sono grato è che io ho una cura maniacale per quello che è il mio suono, sì, e il mio modo di suonare, e un po' magari perché l'hanno scelto loro, un po' perché mi hanno lasciato carta bianca, ho avuto modo comunque di esprimermi. E io tendo comunque a rendere le cose un pochino più dure dal punto di vista sonoro. Ho sentito, cioè giustamente sì. Vai Flavio. Sì, no, voglio dire, si capisce all'interno del disco chi è improntato e cosa. Poi sì, Davide, conoscendo appunto adesso le tre persone, come le stiamo conoscendo io e Maurizio, come le stiamo facendo conoscere i nostri ascoltatori, si intuisce poi, e adesso si capirà anche dalla conversazione, chi è l'anima dura, chi è l'anima gentile e chi è l'anima simpatica. No, beh, no? Ma è una questione di impostazioni. È tutto suono e modo di suonare, quindi Davide impronta molto le cose sull'aspetto melodico proprio, quindi la ballata, il pezzo che va a toccare più la giovane ragazza che... io invece piace metallari alla fine. Cioè, la musica un po' più dura, più sì, adesso. No, a me piace proprio pestare, ok? Quindi... Però, dobbiamo sottolineare una cosa che giustamente tu hai detto precedentemente, sei entrato nella band ma ti hanno consentito di portare avanti un tuo discorso. Sì, ma anche band. Perché essenzialmente doveva essere un progetto a quattro. Ah, ho capito. E per tutta una serie di motivi ci siamo trovati in tre, la cosa funziona benissimo comunque. Anche... Però voglio dire, anche i Police, piuttosto che altri gruppi che sono basso, chitarra e batteria, insegnano che si va avanti così. Il Power Trio ha sempre... C'è da dire, ecco, c'è da dire che è una bella scommessa in un'era in cui le produzioni sono mega galattiche, non c'è una singola frequenza che non sia occupata. Certo. Però devo dire che nel nostro piccolo la cosa va benissimo. Sì, ma il trio perfetto del rock sono tre persone. Il rock perfettamente si fa in tre persone. Pensiamo ai Cream che erano in tre, che hanno sconvolto musicalmente il rock. Quindi è una soluzione. Ha messo Lake and Palm, quindi ce ne sono parecchi. Appunto, il tre è il numero perfetto per il rock. C'è poco da fare. Quattro va bene. Tutto quello che vuoi, però tre parte dal tre, secondo me. Sì, ma anche perché ti metti in una condizione in cui ti devi ingegnare con quello che hai. Quindi che siano i suoni, che siano le chitarre, lo strumento singolo, quello che è, comunque cerchi di tirare fuori il massimo, che non significa tirare fuori troppo. Delle volte devi snellire certe parti piuttosto che caricarle di più, e con quel poco che c'è far risaltare il pezzo, perché alla fine... In qualità di musicisti bisogna essere comunque a servizio del pezzo. Certo. Quindi se io sono un amante delle mega distorsioni, però vediamo che per un certo passaggio serve un suono più morbido. Esatto, bisogna mettersi a servizio del pezzo. Certo. Allora abbiamo detto numero 3, io rispondo numero 2, numero 1. Che canzone ci proponete, visto che siamo in versione live? Partiamo con il primo singolo uscito di questo disco, di cui non è stato prodotto un video. Ci tenevo a sottolineare che potete, cari ascoltatori, osservare e vedere, nonché watchare, come si dice in inglese, il video su YouTube di Hang Up to Dry. Ora vi suoniamo Mental Mess. Unreal until it's gone, freaking out today. remember me when you are gone. A storm of emotions, magic deadly potion, a crowd in the head, Bally Baker bride. The sky is getting red. You know ain't easy, not crappy, just easy. The smiles feel crazy, not easy, just easy. Be mine. Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo appena terminato l'ascolto del primo pezzo live dei Seacoal, che sono venuti qui a trovarci. Loro sono un gruppo di Padova, fondamentalmente amano suonare il punk pop rock, e li abbiamo sentiti già in prima dimensione, in dimensione CD con Hung Up to Dry, e poi in questa versione acustica di uno dei loro pezzi che si intitolava Mental Mess. Eccolo qua. Dave, abbiamo alla chitarra per l'occasione una bellissima chitarra verdolina, un colore che si vede possiamo poco. Dire, ma noi siamo molto sinceri, sì. Non è mia, non è il chitarrista, perché come giustamente hai detto tu, io normalmente suono il basso, esatto. Stasera mi improvviso, non so i pezzi, li sto improvvisando, stanno, sì, anche riuscendo anche bene, sì, sì, però la chitarra non è mia, la mia è fuori, ecco. Sì, aspetta fuori come, esatto, come tutte le signore chitarre. È molto poi bella, ma suona maluccio, ecco. Insomma, si dà da fare, poveretto, diciamo che fa la sua presenza, appunto, No, io ho la chitarra meno peggio adesso, diciamo. Ecco. Bene, e poi abbiamo Domingo Cabron alla batteria, un nome che arriva forse da Cuba, dall'Argentina, è un nome un po' ispanico, possiamo dire. Io da Cavarzare, credo. Ah, da Cavarzare. Provincia di Barcellona. Sì, provincia di Barcellona, esattamente. Giustamente. E poi abbiamo il Pupilla, ancora non abbiamo capito il perché di questo nome, adesso abbiamo capito, ci ha osservato attentamente. quindi il Pupilla alle chitarre, l'abbiamo sentito anche nella esibizione solista all'interno di questo pezzo. Dimensione assolutamente acustica in questo pezzo, molto pseudo-californiana secondo me, anche però il cosiddetto il punk rock and roll che c'era nel pezzo originale da disco si è notato quando Domingo ha frenato un po', ha fatto un stop go, un cambiamento di ritmo, e tu gli sei passato sopra musicalmente rafforzando il giro armonico. Non me ne ero neanche accorto. Sono accorto. Molte cose succedono per caso in questa band, è un po' tutto. Visto, di solito sono i critici che si accorgono, sì, o gli attenti ascoltatori, sì, critico, sì, nel senso positivo, certo, perché certo, comunque certo. Maurizio ti trova ogni e qualsiasi forma, anche solo episodica, legata a un pezzo. Beh, noi abbiamo la fortuna, e per questo dobbiamo ringraziare appunto il Dave. Che ha una bella voce, Dave. Oltre alla bella voce, è una bella presenza, anche un bel mazzo, così, ok? Nel senso che appunto lui si prodiga per fissare date, comunque trovare occasioni per suonare fuori. E quindi questo ci permette di fare molta pratica, quindi delle volte magari saltano fuori dei passaggi, delle cose che poi comunque sono l'ABC per ogni musicista, che però magari senza neanche guardarsi, o proprio uno è girato da una parte e l'altro si sta scaccolando, non lo so. E comunque certe cose vengono perché suoniamo. Ma perché fondamentalmente non sappiamo suonare e ci buttiamo. Fondamentalmente. Okay. L'unico che sa suonare è Davide cantando. No, diciamo capito. Che la dottrina del punk rock, che le origini, alle origini prevedeva che i musicisti sapessero proprio. Ecco. Quindi magari solo un giro di do, ma anche fatto male. No, anche il fatto abbiamo avuto la fortuna, facendo tanta pratica in poco tempo, perché alla fine siamo una band anche molto molto giovane, in quanto abbiamo quanto poco una... più di un anno. 60 anni in tre, mi sembra, no? Di aver capito. Quindi giovanissimi. Sì. No, ma soprattutto il tempo che suoniamo assieme è fondamentale. Però in un poco più di un anno che suoniamo assieme abbiamo fatto all'incirca una trentina di date, ok? Tante, tante. E che quindi questo ci ha permesso comunque di incastrarci, ok? Sì, certo, certo. Ed è una grossa fortuna per e questo sì, assolutamente, perché 30 dati in un anno, un gruppo appena nato sulla carta non sono chissà che cosa, no, ma però sono appena nati, però voglio dire, chi riesce a proporre al pubblico della musica propria si conta sulla punta delle dita, nel senso che poi diciamo i gestori dei locali o altre manifestazioni dove c'è un qualcosa che si prevede a pagamento, prima di far esibire un dato gruppo ci pensa due volte, vede prima quello che è il suo ritorno economico. Noi assolutamente non la ritorno... domanda classica è quanta gente me porti, eccola là, questa è la domanda. C'è da fare un bel discorso e hai toccato un tasto a cui sono molto, eppure non avete le tastiere, ma in questo caso no, l'hai toccato sul mio cuore. Bene. No, è una tematica per noi fondamentale, ok? E far presente a tutti i nostri colleghi, non perché dobbiamo dare l'esempio, ma perché è un nostro punto di vista che ci teniamo a ribadire. E suonare comporta per una band essere flessibili, saper suonare un po' di tutto in qualsiasi circostanza. Quindi questo ci ha portato a suonare anche in date dove magari c'erano tre persone, però noi comunque il nostro apporto l'abbiamo dato, ok? Abbiamo fatto la nostra esperienza e una band deve sapersi comunque muovere e adattare le circostanze. Certo. Il fatto di fare punk rock per molti può essere appunto una cosa dove no, tosi me fa casin, no, perché devo usare il dialetto per far capire meglio le persone che ci si trova davanti. Sì. E i musicisti fanno casino, vengono con le chitarre elettriche, riusciamo a suonare anche in acustico, certo, perché si prova anche in acustico, certo. Perché bisogna essere flessibili, non si può pretendere di suonare in qualsiasi circostanza rimanendo rigidi in certi schemi. Esiste anche quel mezzo e mezzo che invoglia, no? Nel sì, senso, e soprattutto se qua non ci sono gli spazi, ci saranno altrove, ma da qualche parte ci sono, perché molto spesso ci si imbatte in discorsi dove i gestori non ci fanno suonare, non ci sono gli spazi per i gruppi. Gli spazi ci sono, bisogna andarseli a prendere, bisogna muoversi. Certo, che bisogna, è una cosa, tu hai detto una cosa giusta, bisogna muoversi, suonare dappertutto. Sì, quello. Se uno spera, rimanendo qua a Padova, comunque nel Veneto, il bacino è gigantesco, nel senso che uno ha un mondo a disposizione, dove se uno ha la fortuna di andare a suonare in Giappone, che vada in Giappone, certo, perché ha il cugino che magari li tira fuori. È già capitato, una band qua è venuta, aveva un parente o un cugino, un amico in America e sono andati in America. Via. Può capitare sì. Assolutamente. Ed è un consiglio che insomma credo ci sentiamo di dare, assolutamente non rimanere fermi qua. Si prende la macchina, si fa prestare un furgone o si va in bicicletta, trovate un mezzo, in aquilone, come sì. Però muoversi. Qualcosa per muoversi. Assolutamente fondamentale. Bene. Quindi accettiamo anche questo invito ai colleghi musicisti che ha fatto pupilla, perché non abbiano paura di fronte a quello che potrebbe essere il primo no, ma vadano avanti e anzi facciano anche un po' strada. Internet ci aiuta molto, però diciamo che ancora i mezzi tradizionali aiutano ancora tanto. Sì, beh, conta soprattutto avere le persone, ribadisco, Davide detto il compulsivo sì. E appunto si dà molto da fare, poi per carità certamente anche io e Nico contribuiamo, lui per l'aspetto delle date, quello che si mette che spinge di più, però appunto i no e tutta una serie di circostanze dove no non devono altro che rafforzare musicista. Tu hai fatto un discorso che era caro alla filosofia degli anni 60, delle band degli anni 60 che suonavano dappertutto in qualsiasi momento. Sì. ed è positivo un ragazzo così giovane che abbia queste idee, lo trovo estremamente valido questo discorso. No, no, ma io proprio condivido. Una cosa fondamentale quando si vuole mettere su una band, prima di comprarsi gli strumenti e imparare a suonarli, è comprarsi un furgone. Ah, ecco. È vero. Per girare. È la prima cosa. Per girare, il problema per... è spiegarlo ai genitori. Mamma, sì, mi sì, compro il furgone, perché? Perché sì, devo suonare, ma prima di comprare gli strumenti no, mi devo comprare il furgone. Sì. Bene, assolutamente, allora diamo ancora questo contributo, se qualche concessionario è l'ascolto può mettersi anche, come dire, in business con i gruppi futuri, tanto voglio dire The Sequel hanno già il loro furgone, è qua parcheggiato da noi, e, anzi ci sono i cancelli che ne evitano, voglio dire, gli occhi indiscreti. Allora, a proposito di indiscreti, vogliamo far ascoltare qualcos'altro di forte dal vostro disco? Allora sì, sì, sì, c'è la traccia numero 5 che ci aspetta, si intitola Don't You Fail to Try. È una traccia molto particolare perché a breve, anzi già domenica scorsa, sì, domenica scorsa abbiamo cominciato la registrazione del nuovo video. Sarà il prossimo video che uscirà, penso, per i primi di settembre circa, più o meno, sì, diciamola così. E quindi Don't You Fail to Try. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. About facing realities. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il titolo recita così: Don't You Fail to Try. Loro sono i The Sequel, direttamente da Padova. Questa musica ad alto contatto, si può dire così, ad alto contenuto. Ad alto contenuto pure. Allora, da dove cominciamo? Dai testi. A chi vengono in mente i testi? Nascono in inglese, nascono in italiano? Nascono, come credo un po' tutti i musicisti, da un'idea, da una sensazione, da un momento, da un periodo, e si evolvono grazie comunque al supporto di una quarta persona che in tal senso ci dà una mano. E niente, parlano fondamentalmente dei cuori spezzati, dei cuori infranti di San Giuseppe qui vicino, no, di Padova in generale, dei giovinotti come noi altri. E questi sono i testi. E musicalmente come nasce un pezzo? Un accordo di chitarra, non so, un rullo di tamburo di Domingo, una svisata di Pupilla, dimmi Dave. Ma dipende chi è il promotore del pezzo, fondamentalmente. Di questo album la maggior parte sono miei e di Davide. Pupilla cosa ha dato? Purtroppo si è trovato ad entrare in una serie di brani già costruiti. Ah, erano già costruiti. Cioè perché è entrato che doveva essere il ritmico in teoria. Ho capito. E quindi ha potuto dare solo dal punto di vista della forza espressiva. Esatto, di metterci del suo, esatto. Mm. Sul prossimo disco, che sono tutti pezzi, comunque la maggior parte tra me e Davide c'è qualcosa di suo, però si parte da zero nel elaborarli, quindi sicuramente potrà inserire più idee oltre che... Certo, ora, per quello David ha parlato di Greatest Hits, praticamente, di pezzi già sì, costruiti. Ho saltato un pezzettino prima in questo concetto. Greatest Hits allora nasce più che altro dal fatto che le ultime due tracce del disco sono due riprese di due lavori già composti in precedenza da me e Nico. E Nico. Esatto. Quindi ci piace chiamarlo Greatest Hits. C'è una cosa che era già costruita e poi si era sviluppata, esatto, e l'avete portata qua, insomma. Le migliori cose che erano nel cassetto a quel momento, esatto, le avete proprio... Sono come i calzetti che usi la domenica. Comunque fa piacere che Domingo, ho detto anche Cabron, quindi, abbia parlato di un prossimo disco, quindi di una prossima produzione. Vuol dire che vi state dando da fare oltre a promuovere date live. L'idea è quella. Esatto. Mm. In cantiere ci sono comunque già un album pieno praticamente, ovviamente forse qualcosa di più, bisogna adesso arrangiare e vedere cosa scegliere su tutto il pacchetto. Il pacchetto che è già predisposto, esattamente. Ho capito. Quindi vuol dire che ce n'è di materiale. Sì. Bene, allora parliamo anche un po' di quella che è la vostra produzione e di chi ha creduto in voi per consentirvi di fare questo lavoro. Noi stessi prima di tutto. Niente, la quarta persona di cui accennavo prima è l'ex cantante dei Busted, nonché principale responsabile della seconda Vento Booking Agency, e all'anagrafe Fabio Novello, detto Pacino per i più, e ci ha dato una grossa mano per quanto riguarda gli aspetti appunto di produzione artistica. E poi la produzione fisica è ovviamente a carico dei nostri portafogli, ma quello è purtroppo l'iter che fanno un po' tutti quando iniziano. Sì, lo facevano anche negli anni 60. Credo anch'io. I discografici facevano pagare gli allora cantanti, che poi sono diventati famosi e hanno cambiato casa discografica, o in alcuni casi l'hanno addirittura comprata. Ecco. Vero? Sì, certo. Esatto. Per esempio, gli due con l'Island. Esattamente. Sì. Ecco. Oppure il grande successo che ha avuto la Virgin grazie a Mike Oldfield e a tante altre cose, insomma. Ecco, niente, quindi c'è questa figura che ci ha aiutato in fase di produzione artistica e poi quello, per il resto è veramente tutta farina del nostro sacco. Bene, è quello che voi chiamate in copertina Produced by Matma Pacino. Esattamente, lui, esattamente. È proprio lui. Esattamente, proprio lui. Allora, diciamo come fare per entrare in possesso del vostro CD. Venite a rubarcelo a casa. Bene. No, lo trovate su Via Crimea 4. No. Dunque, no, lo trovate sia su iTunes che su Amazon MP3 e sia su Napster, e nonché ovviamente a tutti i nostri live. A tutti i nostri live, i nostri concerti, chiaramente costa un po' meno che comprarlo su internet, quindi vi invitiamo a venire ai nostri concerti. Più ricordiamo anche Original Sport. Poi ricordiamo ovviamente Origine Sport, che ci sta dando una grossissima mano in termini di occasioni, di situazioni, di spazi, soprattutto in occasione della registrazione del nuovo video, da cui è possibile acquistarlo materialmente. Abbiamo questa micro distribuzione e, fisica. E salette prove on stage in quel di Monselice, cioè, sì. In quel di Monselice. Quindi fisicamente si può acquistare, cioè, si può avere il disco fisicamente. Sì, fisicamente, tre occasioni: live nostri, on stage a Monselice, Origine Sport, perfetto, Padova. Perfetto. E per ascoltare ancora qualcosa dei vostri pezzi è possibile andare a curiosare sul vostro piccolo sito all'interno di MySpace. Allora abbiamo sia il sito da cui si dipartono tutti i link, sì, ovvero www.thesequel.eu come Europa, sì, e da cui è possibile agganciarsi al Reverbnation, che è reverbnation.com/thesequel. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook collegata, che presenta anche un player, per cui anche su Facebook si può ascoltare l'intero disco, e il MySpace, che attualmente non risulta ancora attaccato alla splash page perché abbiamo qualche problemino a livello tecnico, ma che risolveremo a brevissimo, ed è myspace.com/thesequelmusic. Ok, bene, se qualcuno ha qualche problema sul capire ancora come si scrive The Sequel, basta andare su un dizionario Google, scrivere falce in italiano e vi arriva la giusta traduzione in inglese. Benissimo, allora c'è spazio ancora per un pezzo live, ancora uno, no? Ce ne saranno, sì, degli altri, però adesso intanto uno. Ne facciamo un altro, ne facciamo uno un po' duretto, si chiama Without Guarantees, e ve la facciamo in versione acustica. Tomorrow, it's sun, but it's gone left, there's no time to borrow. A life spent fucking up, so retains a sense of purpose. Just think everything, when it's all the grain, as life is a circus. I feel like I don't want to slide it be. Feel like I've worked out by countout guarantees. I survived, took my nerves and shattered over my sorrows. Cause it's just life itself, in spite of your happiness narrow. There is just one corner in the whole of the cosmos that you can be sure to improve, and that's your own self. Feel like I don't want to slide it be. I feel like life itself, I count out guarantees. Radio Sera. mi piace perché si stanno divertendo da morire. Sì, è proprio così, si stanno proprio divertendo. Abbiamo il Sequel qui con noi per la presentazione di quello che è il loro nuovo disco, quello che stanno sponsorizzando in questo periodo in tutte le maniere, le abbiamo elencate prima. Hung Up to Dry si intitola e non potete sbagliarvi perché proprio nella copertina c'è proprio quello che è anche il titolo del disco, quindi esattamente appendere per appeso ad asciugare come il nostro cuoricino insanguinato sanguinante per le tante donzelle che hanno caratterizzato le nostre vite. Non è vero, una testa. Avremmo potuto passare la trasmissione a parlare di questo. No dai, è banale e noioso. No dai, sì, no, poi si dovrebbe andare direttamente da Maria De Filippi, esatto, che sa come trattare questi argomenti. Bene, invece noi trattiamo dell'argomento musica, forse va oltre i sentimenti, ma forse è proprio il sentimento maggiore quello che accomuna voi musicisti nel proporre ai vostri ascoltatori, che siamo anche noi, la vostra musica. Questo punk però un po' mitigato, perché chi dice punk solitamente si affida a figure tipo Sex Pistol, tipo Clash, poi un sacco i Ramones, gli Stooges mi pare, sì, no? anche i hip hop ha fatto un po' anche di, hip hop ha fatto un po' di punk, un punk a sua immagine e somiglianza, però è passato un po' di là anche lui. Esattamente. Poi è ritornato il vecchio Iggy di sempre, anzi è proprio vecchio ultimamente. Sì, vecchio, però ha fatto recentemente anche Flavio un po' consumato. Sì, però ha fatto un disco recentemente ben diverso dalle solite cose che lui ha fatto. Se arriva all'età di Iggy come Iggy adesso, fai anche con tu quelle cose che ha passato, con quello che ha fatto Iggy. Sì, esatto. Okay, con quelle stirate. Dobbiamo sottolineare una cosa, però lo dico sempre quando vengono le band che parlano di Iggy Pop: se non ci fosse stato David Bowie, non ci sarebbe più stato, assolutamente, sarebbe scomparso, no dal punto di vista fisico, ma scomparso musicalmente, l'ha rinato proprio producendo il suo disco più famoso, che è la stessa cosa ha fatto con Lou Reed, David Bowie, proprio un cretino, uno che sa fare le cose assolutamente, che sa cambiare le mode, sta influenzare le mode, sì, l'ha sempre fatto, sì, sì, e spero continui a farlo. Si dice che c'ha un disco prossimo da mesi, però lo tiene nel cassetto, o da anni forse, ma lo tiene nel cassetto, vedremo. Vediamo che lo tiri fuori prima o poi, eventualmente gli provochiamo un trasloco, chissà che magari entriamo in possesso di quel cassetto. Sì, esattamente. Ecco, bene, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che stanno piacevolmente ascoltando la fascia serale di Blu Radio Veneto, questa è Blu Radio Sera, io sono Flavio Bilato, c'è con me Maurizio Calzavara, ci sono i Sequel, insieme oltre ad ascoltarsi nelle frequenze tradizionali classiche dell'FM, siamo anche presenti su internet. Per ascoltarci è sufficiente andare al nostro sito www.bluradioveneto.it, cliccare sullo streaming audio e quindi avete la diretta audio, però visto che siamo in diretta, siamo anche live, c'è la possibilità anche di vedere i nostri musicisti che stanno salutando, ognuno alla propria maniera, simpaticissimi davvero. Allora andate sulla notizia che riguarda The Sequel e cliccate guarda il video e lì voi sarete come nei nostri studi. Benissimo. Salutiamo e ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Prisco. Grazie. Senza di lui stasera non si... Grande Alberto. Esattamente, grande è stato Alberto. Lui il promotore di questa vostra comparsata musicale nel senso positivo del termine. E salutiamo anche la Rossella che ci segue sempre. Ciao, grazie Rossella. Mille. Ciao, Rossella. La chiameremo anche Rossi Music. Esatto, in questo caso, sì, esattamente. Vabbè. Rossella domani un altro giorno. Ecco, sì, questa mi sembrava via col vento. Col vento. Vabbè, quindi citazioni anche famose, storiche di film che hanno lasciato il segno, ma anche The Sequel, proprio per il fatto di essere una falce, lascia sicuramente il segno. Allora andiamo ad ascoltarci un altro pezzo da disco, quindi prendiamo un po' di fiato. La traccia che ci aspetta è la numero 7. Sì, una delle più morbide del disco, scritta dal nostro carissimo batterista, che sa anche scrivere i pezzi, non solo far casino e tenere il ritmo, ma sa anche scrivere i pezzi. Un pezzo molto bello, un pezzo un po' atipico tutto sommato, perché non c'è un vero e proprio ritornello, non c'è una vera e propria strofa. È un pezzo che fluisce da solo, si chiama It's Just Rain. Luna, Luna, Luna, Dio Sera. Blu Radio Sera. Change, not without a gain. Everything's mundane, and what's done for you on your gravy train. You run, you fight, everything within your line of sight, but that's not standing up for your rights. You hate the change, you don't see the gain. Hate is just a name when nobody's. Or keeping out commands. You hit the chains if you don't see the game. Hate is just a name when nobody's facing down your back. It's just rain. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccolo qua un altro pezzo dei Sequel, tratto dall'ultimo lavoro, si intitola Hung Up to Dry. E si diceva prima, Dave, che questo pezzo l'ha scritto Domingo Cabron. Esattamente, il nostro Domingo Cabron all'anagrafe Nico, senza cognome. La linea melodica comunque è stata partorita dalla mente di Davide. Ah, Davide ha fatto la linea melodica. È comunque un pezzo di in coproduzione, sì, dai, di diciamo. Unione di due tecniche. Il finale rumoristico, secondo me, alla fine, cosa dite? Sì, abbastanza glorioso, se vogliamo. Sì, possiamo dire glorioso, esatto. Dai. E Pupilla si limitava, cioè non andava oltre. Una chitarra molto, molto umile. Esattamente. Esatto, sì, doveva essere così, doveva seguire la linea, non andare oltre la linea. Nulla doveva andare oltre. Certo, certo, esatto, certo. Sì, sì. Sì, come l'idea, come ti è venuta, Domingo? No, la versione ufficiale, non la versione la versione ufficiale. L'idea scarna, l'idea scarna, al di là degli arrangiamenti molto interessanti. Scarna. Capita come è capitato con molti pezzi, almeno per quelli dove c'è il mio zampino. Sì. In quelli dove ci sarà, e mi capita di prendere la chitarra, che è quella lì nera, quella di Pupilla. Quella di Pupilla. E la suono. Ah, direttamente. Ma non tu sei diciamo dove, suoni la chitarra, suoni la batteria, qualche altro strumento suoni? Suonavo il violino da piccino. Ah, suonavo il violino. E so suonare anche il piano. Però, interessante. Sì, quattro accordi. Beh, non importa. Quindi la chitarra di Pupilla, hai fatto un accordo. Cioè no, sì, parti a suonare a caso. Sì. E se viene, se fluisce, ti incanali. Vuol dire che la cosa è giusta, è fatta bene. Cioè, sì, e la prendi, e vedi la di prenderla al volo. Direttamente. E poi cerchi di registrarla immediatamente. Non sono mica d'accordo loro due, non sono d'accordo. O siete d'accordo? No, si seguiva proprio il flusso di pensieri, appunto, relativo. Non diciamo dove si mette a suonare la chitarra. Vabbè. No, lo diciamo. Suona la chitarra e basta. E okay? Tutto fluisce. E tutto fluisce. Diciamola così. Beh, i pezzi si fanno anche così, giusto, al di là, sì, di tutto. Sì. E possono venire come no, insomma. Certo, pezzi. Certo. E quindi c'è chi fa la settimana enigmistica, chi fa. Delle volte sei congestionato. I pezzi rimangono. Abbiamo capito. Benissimo. Allora. Hung Up to Dry, questo nuovo lavoro, le vostre prossime tappe dal vivo qui in giro, dove vi possono trovare, ragazzi? Mi faccio serio. Allora, siamo il 12 agosto in quel di Rovereto, presso Bar La Scaletta, saremo in Unplugged, acustico minimal, chiamiamolo come vogliamo. Sì. Comunque in questa versione canzone qua. Dopo e col saremo. Furgone. E sempre. Sempre col furgone. Non ci abbandona mai. E dopodiché saremo, siamo in ballo, stiamo vedendo se arriverà o non arriverà una conferma per il Ferragosto, vedremo, non so quando sarà da annunciare, se annuncerà. Poi abbiamo una tappa il 21 di agosto, giusto? Sì, in quel di Cave d'Ago, presso la sagra di Cave d'Ago, e saremo in elettrico. È Treviso Cave d'Ago? No, Trento. Ah, Trento, sì. Pardon. Ecco, dopodiché... Era, vede l'ago quello là, si trova lì. Ok. Dopodiché saremo a Padova il 9 di settembre all'Altichie Rock. Di che rock, sì. E poi un sacco di cose bellissime questo autunno, tra cui un mini giretto europeo. A proposito, parlami un momento del mini giretto europeo. È una cosa che ci piace fare ogni tanto. Pigliamo, diciamo, adesso ci facciamo quando un giro europeo. Ma qualche concerto da fare, sì o no? Sì, assolutamente sì. Ci scherziamo. Abbiamo già suonato la Priptra, peraltro, la barzelletta di questa band. Come è nata la band? Quando è iniziato a suonare, abbiamo suonato per la prima volta insieme dal vivo in Danimarca. E come si suona in Danimarca dal vivo insieme? Fa freddo. Fa freddo. Ma di là è fa giorno presto. Il pubblico. Che aspettativa. Allora, contestualizziamo la cosa. È una situazione molto favorevole. Molto particolare, molto favorevole, sicuramente. Ci abbiamo anche messo del nostro, dai. Non svalutiamoci, via. E niente, mi trovavo in Erasmus in Danimarca. Certo. C'è stata l'occasione di collaborare con questo locale, peraltro molto accogliente, con un bel palco, un sistema di luci interessante. Sono presenti video sul nostro canale YouTube, che lo ricordo, youtube.com/Dave, The Sequel Dave. E niente, abbiamo fatto questa serata, era la prima volta che suonavamo insieme. Dopodiché tutto ha seguito con le 30 date degli ultimi 12 mesi. Abbiamo suonato due volte a Berlino. Sì, tre volte. Quel di marzo, tre volte, compresa la data sul ponte. Ci siamo messi a suonare sul ponte perché non andava troppo bene la serata nel locale. Quindi abbiamo detto: col cavolo, andiamo dove c'è la gente vera, verace. Mm-hmm. E quindi siamo finiti a suonare sul ponte. Possiamo dire di aver fatto anche quello. E adesso niente, si è pensato in fase di promozione, per rendere la promozione migliore possibile, di organizzare un po' di date in Europa. Saremo, se tutto fila liscio, di nuovo in Danimarca. Poi in quel di Amsterdam, Anversa, attendiamo la conferma. Si spera che si riuscirà a suonare anche in quel di Anversa. Dopodiché saremo a Duisburg e di ritorno poi ci fermiamo a Milano, facciamo una datina veloce in elettrico a Milano, sì. E torniamo a casa. Sì, diciamo che con questo si conclude o andrà a concludersi la promozione del disco, di questo disco. Poi magari vediamo quest'inverno. Nel frattempo comunque stiamo fissando e confermando tutta una serie di date. Queste sono quelle al momento disponibili. E lì con buone probabilità si chiuderà per dicembre più o meno la promozione di questo disco, e da gennaio febbraio iniziamo con la produzione del secondo. Ho capito. C'è da fare. Bene. Abbiamo detto c'è da fare. C'è da fare un altro pezzo. Oh, benissimo. Cosa facciamo? Facciamo il pezzo più bello del disco, signori. Facciamo la traccia numero 4, si chiama Reruns and Remakes. Per chi ci segue da un po' lo conosce già, sia in versione acustica nell'EP che portava il mio nome, e adesso in versione elettrica nel disco. Noi ve lo rifacciamo in versione acustica. Reruns and Remakes. Time patching up my life, trying to make it look somewhat the same. I did cry throughout my life and I've never felt ashamed. I always thought that you would come around. Lost in something you love could pave the way for something new. Feel like I'm stuck in a lake of goo, with no paddle, no canoe. Reruns, remakes, that's all I've been about. My game, but it would never look the same. was looking hard to always end up screwed. Heart still a muscle that mounts, I'll be out of shape. I can't train it out of my blue. Loss of something you love, stitch me something new about you. Loss of something you love, we're just like cracks lying askew. Reruns, remakes, that's all I've been about. Reruns, remakes, day in and day Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua sempre con i Sequel, questo loro andare via di live in una versione acustica, questa forma di punk rock che invece si può ascoltare all'interno del loro disco, come diciamo un punk rock definito anche melodico perché è molto addolcito. Hung Up to Dry si intitola questo lavoro che stiamo imparando a conoscere insieme. Questo è un pezzo molto bello, secondo me. Noi nella recensione abbiamo scritto che fosse uno dei brani più belli del disco, avvolgente e coinvolgente, come non mai. L'impasto di cori era molto importante, l'impasto di cori l'avete fatto anche qua, unplugged, chiaramente in forma leggermente diversa da quella del disco, e tu hai colorato, se mi è consentito il termine, all'acustica quello che invece hai colorato all'elettrica nel pezzo. Sì, sì, beh, il modo di suonare bene o male è quello, ripeto, è sempre tutto molto ignorante, ok? In che senso ignorante? Ignorante nel senso... Nel senso bello, appunto, è proprio l'ABC del suonare. Mm. Quindi le cose che facciamo sono proprio basilari, magari mescolandole assieme con un appunto di colore si riesce a tirar fuori qualcosa di... Sì, beh, questo è un pezzo molto, molto insignificativo, anche come arrangiamento, era molto, non dico californiano, ma molto americano, quello sì, posso, se sì. Mi è consentita l'espressione. Scherziamo. Gli United States non è una cosa negativa, è una cosa positiva, assolutamente. Fino a prova contraria è il più grande mercato musicale del mondo, quindi appunto, non possiamo che prenderlo come un complimento. Esattamente. Sì. Poi anche comunque a distanza di tempo magari io sono anche del parere che mi piacerebbe cambiare comunque qualcosa, perché sai quando registri, no, ti fai prendere magari dalla foga, certo. O comunque dalle varie esigenze di registrazione. Forse per me ogni tanto mi faccio degli svasi, ci starebbe un piano qua, un cimbalo, cose. Ci poteva stare un piano là dentro, secondo me. Ma guarda, più avanti credo, dopo il quarto o quinto disco, riarrangeremo tutto con l'orchestra, ognuno con la sua carriera solista, anche Eric Clapton Houston, voglio dire, sì, Laila è riuscito a farla da una maniera assolutamente sì, rock dura, in una maniera molto, molto versatile e sincera, sì, accompagnato anche dal pianoforte nella versione appunto lunga, quella lunga, quella lunga, sì, nella, sì, versione unplugged anche, no, no, da Derek and Dominus Live, Derek and Dominus per primo, poi esatto, ancora lui ha continuato a, certo, proporla sempre in maniera, certo, sempre più dura, fin tanto che si è chietato un attimino, è vero, lui, e ha fatto la versione in unplugged, che è bellissima, sì, da MTV, famoso unplugged di MTV di Eric Clapton, un po' di anni fa, un po' di anni fa, circa una ventina d'anni, esattamente, no? Circa, esattamente. Forse noi non eravamo ancora nati, no, ma no, l'unplugged, no, quello di Clapton era lui che aveva i capelli lunghi biondi, giusto? Sì, eri col maglione. Sì, vedo che avete di ottimi ricordi. Allora, noi a un certo punto della trasmissione siamo soliti a chiedere ai nostri ospiti quali sono le influenze artistiche, visto che abbiamo citato un po' di America, un po' di Inghilterra, abbiamo citato l'Italia. Citiamo anche i nomi degli artisti che vi hanno forgiato e anche magari legati a degli album che voi vi portereste in qualsiasi parte del mondo per averli sempre appresso. Pensavo... Naturalmente, oltre al vostro disco. Chiaro. Non volevo dire che mi stavo illudendo quando hai detto siamo soliti fare la pausa caffè, invece niente. No, non c'è, no, la pausa, no. No. No, niente, allora, influenze, io personalmente in questo caso parla Dave, ecco qua. Esatto, sì, fa giustamente. La viaria, sì, ti sei preso. Sono preso la viaria. Perché? L'influenza. Ah, l'influenza. No, penso. Momento questa, British. Questa, okay, è stato un momento British. No, niente, allora, influenze come Go Go Dolls, American Hi-Fi, Blink 182, anche perché no, Eric Clapton, sì, mettiamolo dentro, anche Eric Clapton. Che periodo di Eric Clapton? No, dai, così mi metti in difficoltà. Beh, Eric Clapton e basta. Eric Clapton, quello delle droghe leggeri. Quelle non si dicono. Beh. Prego, prego, i miei colleghi cosa dicono? Vai, io, batterista. Nico. Ascolto veramente parecchia musica rock. Ho passato parecchi periodi. Sì. Quindi dal periodo metallaro di quando hai 16 anni, quindi dagli Iron Maiden, certo, Metallica, tutte le band speed metal come Stratovarius, Halloween, quelle cose lì. A un periodo molto rock glam, quindi Van Halen, Motley Crue, Guns, Poison, un po' poco però c'erano di mezzo anche, sì, quelli. C'erano anche quelli. Def Leppard, tutte quelle, sì, band là, Aerosmith, eccetera. E un periodo ultimamente un po' più punk, quindi dai NoFX, Millen Collin, quelle band da basso con punk, un hardcore abbastanza spinto. E adesso se lo ascolta Antonacci. Molto Ramones, eccetera. Antonacci può essere punk anche. Beh, comunque spazio parecchio, di, sì, parecchio. E tu, Pupilla? Beh, io proprio seriamente, lo dico seriamente, il primo disco che ho comprato è stato delle Spice Girls. Ah, perfetto. Ma seriamente, ok. E, sì, e If You Wanna Be My Lover, You Got To Be My Friend mi ha insegnato diverse cose, okay? di etica professionale. No, poi logicamente, come tutti i musicisti e ragazzini che crescono così, anch'io ho fatto la mia carriera di metallaro agguerrito, ok? E adesso di tutto, a me piace molto il blues, ok? Quindi Stevie Ray Vaughan, B.B. King, questi personaggi qua, Muddy Waters, via dicendo, a me piacciono molto perché sono cose semplici, anche ripetitive, però cioè, una nota di B.B. King a mio avviso può valerne, può valere un disco anche, l'intera o due, discografia degli U2, tipo. Sì, no, per carità, beh, in termini di resa, ok. Non ha mai detto Bono che non è un amante di B.B. King. Quello, no, l'ha, no, sempre, beh, l'ha sempre, no, l'ha sempre considerato. No, lui è che sta combattendo questa battaglia fin da quando è in fasce contro gli U2. Non gli stanno simpatici, quello. E quindi per quello, allora. Sì, poi per carità, De Gustibus. Ah, sicuramente milioni di persone nel mondo non sono d'accordo. Beh, certo, cioè, tu, sì, dicevi, Pupilla, il blues, quindi B.B. King. Blues, sì, poi assolutamente di tutto, nel senso che la capacità della musica contemporanea è di poter mescolare tutto. Quindi non è necessario essere dei rocker e ascoltare per forza il rock perché, sì, suono la chitarrona elettrica. Certo, okay, certo. Come direbbero su Virgin Radio: ehi fratello, non serve avere i tatuaggi. Però il blues non c'è nella vostra musica, o meglio, sembra essere sempre pronto a venire fuori, però non lo sento. Lo freniamo. No, il blues effettivamente devi beccarci nella serata giusta live, dove abbiamo un attimo di calma e tempo per poterci esprimere, salta fuori di tutto. Ho capito. Dopo sono quelle cose dove il live è bello proprio perché ti puoi esprimere, più tempo e più situazioni hai per farlo meglio è, quindi sei più rilassato, anche il contatto con il pubblico che è fondamentale, cioè delle volte il live nostro noi ha un'impostazione che può essere la scaletta, ok, l'ABC, dopodiché ci sono dei momenti dove si può scambiare la chiacchiera, ci possiamo appunto adagiare un attimo senza per forza essere sempre tirati, perché è importante il contatto, quindi se dopo ho voglia di spararmi due note blues chiedo ai miei colleghi, mando problema. Un fax, sì, ok, sì, inoltre l'approvazione, una forma di comunicazione veloce, sì. Benissimo, allora prima di passare a un altro pezzo, non abbiamo citato nessun autore italiano, è stato un caso o c'è ancora? No, non credo sia un caso, uno a testa. Siamo molto critici nei confronti del panorama italiano, sia a livello sia in termini discografici che in termini di produzione. Ci sono tanti ragazzi, sono tanti talenti, sono poco valorizzati e purtroppo si vede e si sente, a noi ci piace ascoltare l'inglese. No, beh, il bello del, se posso, sì, madonna, scherzo, mando il fax, ma sì, adesso ti rispondo, vai. No, il fatto della musica italiana, certamente magari non a me, non lo so, posso piacere in negrita, ok, sì. Ma di per sé noi non ascoltiamo tutto sto granché di musica italiana, comunque bisogna riconoscere il fatto che siamo influenzati per quello che è la melodia, nel senso che l'Italia per quello che è la musica italiana è molto melodica, magari senza neanche ascoltarla, ok, però abbiamo, è intrinseco nella nostra personalità e tirar fuori la melodia, come un po' quando il nostro batterista si mette al piano e tira fuori la melodia napoletana, la sua sangue. No, in Italia la situazione è grave. Ok, quindi non stiamo, adesso non voglio star qui a fare, stendiamo pure un velo, ascoltiamo, esatto, ascoltiamo un altro pezzo, sì, dei vostri, perché altrimenti la critica qua non si ferma, anzi, visto che vi chiamate Sequel, via che si taglia spesso la scaletta, noi allora, si taglia spesso la scaletta, sì. Allora un altro pezzo tratto da disco, per poi concludere bene con il live, la traccia numero 8. La traccia numero 8. Lì viene fuori un po' di blues. Lì viene fuori un po' di blues. Unito a, secondo me, però non so se sia un po' rockabilly. Green Day primo stile. Io ho scritto Go Go Dolls, siete d'accordo? Sulla lunghezza della melodia del ritornello mi trova molto d'accordo. No, più che altro dobbiamo ringraziare Brian Setzer che è venuto a suonare da solo. È venuto da voi? Sì. Perfetto. Abbiamo speso questi 2 milioni. Avete mandato questo fax e vi è arrivato. E per la bella faccia nostra. Cioè, ascoltiamo questo pezzo che ha un titolo assolutamente lunghissimo. Esatto. Lo farei dire a Dave. Before I met you, after you're gone. Blu Radio Sera. Love me when it made sense. Love me when I Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Possiamo ricordare già da adesso che al termine della nostra trasmissione il tutto proseguirà con altrettanta energia, perché è arrivato Renato Ferro, ci farà ascoltare più tardi un po' di selezione degli anni passati dell'hard rock e heavy metal. Possiamo assicurare che ha dei gusti davvero eccelsi, per cui passiamo il resto della serata in piedi. Yeah. Ecco qua. Allora, tanto per continuare appunto alla giusta maniera The Sequel, anzi, se poi avete delle domande da fare a Renato, visto che è un grande esperto di hard rock e heavy metal, assolutamente non perderemo, ecco, l'occasione. Bene, aspettate fino a mezzanotte, che però prima deve fare la trasmissione. Ah, ok. Va bene. Va bene. Allora, abbiamo ascoltato quello che è il pezzo che era, secondo me, anche un po' da traino del vostro disco, magari qualcuno la pensava diversamente, con questo ritmo che poi è stato raddoppiato, si può dire, verso la fine. Un titolo lunghissimo che forse è per quello che la copertina si può estendere a tre facciate. Quindi. Non ci avevo pensato a questo. Before I Meet You After You're Gone. Ecco qua. Esatto. Boh. Beh, è una canzone un po' così, è nata un po' di corsa, suonata di corsa, un po' una cavalcata molto critica, molto nervosa nei confronti di una donna. Prima l'ha incontrata e poi se n'è andata. Before I Met You, sì. E dice una serie di cattiverie: prima che ti conoscessi stavo meglio e dopo che te ne sei andata sto meglio. Questo è il senso, diciamo. Quindi musicalmente riflette anche il testo, quindi veloce, sì, velocissima, nervosa, contrastata. Batterista fa il suo lavoro, pupilla fa il suo lavoro, e dal punto di vista vocale non arranchi, cioè prendi proprio in mano il discorso e vai avanti. Noi siamo molto sinceri, sì, in questo pezzo ho arrancato tecnicamente. È un pezzo che mi sono scritto io, la cui linea melodica l'ho scritta, certo, io, scritta e me la sono scritta martellandomi le dita sul tavolo. Perfetto, è chiaro, è così. Regolare. No, poi con Nico, sì, è stato bello perché volevamo dare un apporto. Allora, di per sé è abbastanza standard, no? Cioè, sì, matrice punk. Sì, è chiaramente matrice punk. California, fine 90. Nico ha detto fine anni 90, chiaramente, sì, californiana, dai. E dopo ci siamo messi lì a ragionare come dare qualcosa. Questo pizzico che non c'entrasse nulla, okay, con la... E allora lì abbiamo pensato di tirare fuori una solo rockabilly, praticamente. E la cosa bella è che appunto c'è un dialogo, e nonostante non si suoni lo stesso strumento, appunto io magari proponevo delle cose, no? Magari mettiamola così, colà. E è stato strano parlare effettivamente con un batterista di assoli di chitarra. Comunque è stato molto piacevole perché ci ha permesso di sperimentare questo pezzo. Nel senso che delle volte magari scrivi delle cose, le butti giù, le suoni, però ti accorgi che gli manca qualcosa. E a continuare nella stessa direzione, cioè se mettevamo altri elementi punk in questo pezzo, magari, sì, diventava proprio lo standard sbrodoloso. Anche noioso. Invece, scontato. Magari quando ce l'ascoltiamo, perché ne parliamo spesso di questa cosa. Cioè... Sì, è il punto che richiama l'attenzione, se non altro la mia e quella di pupilla. Per solo una cosa, una curiosità: all'interno dei concerti, visto che abbiamo parlato di assolo, sì, è previsto anche un assolo un po' cattivo di batteria? No, te lo permettono. Non me lo permetto. No, è un estremo perché... critico di queste cose qua. Sì, giustamente, sì, il suo punto di vista, che ve lo porrà lui, io lo condivido moltissimo. Era un classico degli anni 70, si usava, sì, sì, fare quello quarto d'ora, 20 minuti The Mule, alla insegna Neil Peart, che andava, sì, avanti ore. Sì. E non amo quel tipo di spettacolo. Anche perché devi essere veramente in grado di riuscire a captare, sì, anche dirla alla veneta te a saperlo fare, sì, certo, sì, ma non solo tecnicamente, sì, sì, anche proprio col gusto, devi sostenere il discorso, perché ce ne sono tanti di batteristi che hanno fatto queste cose, sì, anche, certo, moderni, ma non, sì, tutti sono in grado di tenerti incollato, perché poi la batteria per quello, quanto possa essere bella, devi, appunto, essendo percussiva, devi comunque riuscire a devi tenere per creare la melodia, certo, della devi dare groove, devi dare sono veramente pochi quelli che riescono a farlo in 5 minuti, un quarto d'ora, quello che è, facendo sbirollevare, facendo vedere che sanno fare il paradiddle, quelle cose lì. Sì. E poi le sbrigolettate con le bacchette in aria, quello non ho mai imparato a farlo e non ho mai avuto la voglia di imparare a farlo. E vedi, non è nell'ABC della batteria, fa parte della parte ZXY, esattamente, però sì. Io mi sono fermato all'ABC. Bene. No, è anche vero che Nico comunque è sempre presente con la batteria, che quindi cioè inizia lui i concerti con cosa fa, incastri, un sacco di cose, ok, insomma inizia lui il concerto con la batteria, sì, che sì, è proprio l'elemento fondamentale di traino, ed è sempre presente anche quando io e Davide insomma ci addormentiamo. Vi riposate, bisogna confermarlo, che se lo vedete voi con le videocamere vedete che è legato, è legato praticamente. Sì, ma questo purtroppo è la sfiga di tutti i batteristi, che ha delle spazzole con sé, ed è anche quello che la batteria nessuno se ne accorge che esiste, cioè ci si accorge che esiste nel momento in cui sbaglia. È vero, questo. Sì, è vero. Quando vero. Vai fuori, lì c'è il batterista. Se no, poi è tutto nella norma, tutto giusto. Sì, tutto sì, perché il tempo. Ma purtroppo fa parte dei ruoli, è così. Vabbè, allora, dei ruoli o dei rulli in questo caso. Ecco, benissimo. Allora, c'è tempo ancora per un paio di canzoni prima di salutarci. Allora, due canzoni live ci avete promesso. Oh, sì, a noi ci piace suonare live. Allora, andiamo con un'altra ballatona, un altro pezzo d'amore. Una seconda possibilità, second round. Well, I won't cry, but you won't lie. I like the truth, sometimes it hurts. I feel like life is just passing me by. Second round, so how does it sound? Second chance, make a stance. Fragile's what I might appear to you. We can just fight time. Take a plea. We say we're past our prime. And I agree. If both you and me should let me free and find the strength to move on. Then why just me who still believes we're a pair? All this cannot be. I'm quiet, but I won't lie. Like a truth, sometimes it hurts. I feel like life is just passing me by. Second round, so how does it sound? A second chance, make a stance. Fragile's what I might appear to you. We can just fight time. Take a plea. Say we're past our prime. And now you're clean. Strength to move on. Then why it's just me who still believes we're a pair? Our faces cannot be. Fight time, take a plea. We say we're past our prime, and I agree. If both you and me should let me free and find the strength to move on, then why it's just me? Believes we're a pair. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E adesso io e Maurizio ci sentiamo proprio nella mischia, proprio sul più bello, quando la cosa sta prendendo piede, sì. È vero? Quando si sta scaldando. Sì, ci si deve anche lasciare. Eh sì, purtroppo. È vero, sì, si finisce sempre così, però c'è sempre la promessa che, visto che c'è un secondo disco, come qualcuno di voi ha già anticipato, saremmo onorati di essere ospitati. Ecco qua, la porta è sempre aperta, anzi, è Maurizio, veramente aperta. È veramente aperta, perché lasciamo passare un filino d'aria, perché i nostri studi sono piccoli piccoli, però si crea un'atmosfera davvero grande grande, e per cui con l'atmosfera anche il calore sia nel senso di cuore, sia nel senso di effetto esterno che fa sudare, ecco, diciamo così. Allora, The Sequel, l'album che sono venuti a presentarci, Hung Up to Dry. Ricordiamo ancora una volta come fare per entrare in possesso di questo disco, quindi ai vostri concerti. Ai nostri concerti, materialmente, fisicamente, in distribuzione fisica presso On Stage, sale prova di Monselice, sì, oppure presso Original Sport, sito in Piazza Mazzini numero 8 a Padova, tra l'altro, sì, è un negozio bellissimo, visitatelo ragazzi, sì, nonché su internet presso i maggiori digital stores quali iTunes, Napster e Amazon MP3, nonché tutta una serie di derivati che non sono nemmeno a memoria, per cui poi tutti i nostri siti, principale www.thesequel.eu, come Europa, da cui si dipartono i vari link, quindi Facebook, la pagina Facebook, il MySpace, il nostro MySpace è myspace.com/thesequelmusic, il nostro Reverb Nation è reverbnation.com/thesequel. Insomma, basta cliccare Google su The Sequel e di sicuro sta qualcosa. Ecco, su Google è veramente la pista più facile, è per il salvagente per chi abbia bisogno di qualcosa. Trovarvi Sequel scritto Savona, Imola, Como, Kaiser, Livorno, Empoli. Esattamente. Per non sbagliare. Ricordiamo ancora i prossimi concerti, ragazzi. I prossimi concerti siamo il 12 agosto alla Scaletta di Rovereto, mentre il 21 a Cave d'Ago, alla Sagra di Cave d'Ago, e il 9 settembre all'Altichieroc qui a Padova, dietro la chiesa nel campo sportivo di la chiesa di Altichiero. Molto bene. Benissimo, allora noi ringraziamo ancora una volta The Sequel per essere stati grazie con noi, quindi voi. Grazie, grazie a Dave, grazie a Nico, chiamato anche all'anagrafe Domingo Cabron. E poi ancora grazie anche al Pupilla, se andate a visitare il sito capirete anche il perché di Pupilla. Benissimo, allora grazie, ragazzi, so che ci lasciate con un ultimo pezzo live, e quindi io e Maurizio vi lasciamo i microfoni aperti ancora per il vostro ultimo pezzo. Poi ricordiamo ai nostri ascoltatori che naturalmente le tracce audio saranno presenti anche prossimamente all'interno dei nostri podcast. Guardate anche la nostra pagina su Facebook, quindi basta chiamare nella ricerca di Facebook Blu Radio Veneto trattino Rock Wave, e vi vedete tutti quelli che sono stati i nostri ospiti tramite foto, e non solo, ci sono anche i collegamenti per i podcast, e questi sono presenti anche all'interno del nostro sito internet ufficiale, che è www.bluradioveneto.it. Con questo io vi saluto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, a risentirci, buonanotte, l'ultimo pezzo di The Sequel ancora, grazie ragazzi. Ciao, grazie ragazzi, ciao a tutti, vi salutiamo, ciao, con Addicted with Dreaming. Reason to hear and crow, riding through the rapids, convince your control and the flow. Do you still have fun? Do you still enjoy your dry run? It's gotten paler than pale beyond me, and still am I right? Addicted to dreaming, you're tricking up your memories. Dreaming, bringing what you need. dreaming. You got hot on being delusional. Dreaming precisely what you need. Don't you ever overthink about your own reaction. You just gallantly surf through them. Love trees are paging in the same big book, creating it from the ground up your sleeve. Glimpsing brows and just delusional. Addicted to dreaming. In a heart I'm being delusional. Dreaming precisely what you need. Addicted to dreaming. The destruction of your character. Dreaming precisely what you need. Yeah, yeah, yeah. Tricking up your memories. Dreaming precisely what you need. Addicted to dreaming. You got hot on being delusional. Dreaming precisely what you need. Dreaming. You got hot on being delusional. Dreaming precisely what you need. Overthink about your own reactions.